voglio che vi rendiate conto di tutti i suoni che provengono dall'esterno della stanza. What are you trying to tell me? That I can dodge bullets? No, Neo. I'm trying to tell you that when you're ready, you won't have to. Seconda parte di Eclettica in compagnia di Giulio Caperdoni sulle frequenze di Rock FM tutti i giorni fra le 19 e le 20. Seconda parte che si è aperta con il gruppo inglese dei Dragons che fra l'altro hanno lasciato un segno del loro passaggio assolutamente non sollecitato sulla pagina di MySpace di Eclettica, myspace.com/eclettica. Mi piace quando compaiono queste cose così all'improvviso, vuol dire che comunque si viene tenuti d'occhio e a questi gruppi fa piacere di essere trasmessi da una radio italiana. Dragons, per esempio, come già ho detto, ma ultimamente sto andando a memoria anche At Swim Two Birds, hanno lasciato un segno del loro passaggio, poi forse anche qualcun altro che non ricordo bene. Segno del passaggio su myspace.com/eclettica che ovviamente può lasciare anche chiunque fra voi si ritrovi fra le mani un browser. Ora si prosegue con un nuovo gruppo italiano, si chiamano Don Turbolento, hanno prodotto un promo con 5 tracce ancora non masterizzate che hanno inviato in Italia, all'estero, alla ricerca di un'etichetta che credesse nel loro progetto. I risultati sono stati abbastanza scarsi, però tra le prime risposte che sono giunte loro una cartolina della Discord, dell'etichetta di Washington DC, che ha risposto appunto che pubblicano solo dischi di bands della comunità di Washington DC, ma sono comunque felici di ricevere materiale anche al di fuori della loro area. E hanno ascoltato con attenzione il promo che gli era stato inviato dalla band e hanno segnalato una traccia, soprattutto Spend the Night on the Floor, e questa cartolina è stata messa sulla copertina dei Don Turbolento. È un uccello lungo 5 cm che sa parlare ma continua a fare riferimento a se stesso in terza persona. Per esempio, è un gran bell'uccellino, no? La mitologia persiana sostiene che se un nurk appare sul davanzale al mattino, un parente riceverà un'eredità o si romperà le gambe giocando a tombola. Si dice che Zoroastro abbia ricevuto un nurk in regalo per il suo compleanno, anche se la cosa di cui aveva veramente bisogno era un paio di pantaloni grigi. Il Nurk appare anche nella mitologia babilonese. Là è molto sarcastico e continua a dire «Dai, piantala!». Lo Snol volante. Una lucertola con 400 occhi, 200 per vedere da lontano e 200 per leggere. Secondo la leggenda, se un uomo guarda direttamente negli occhi lo Snol, perde immediatamente il diritto di guidare la macchina nel New Jersey. Anche il cimitero dello Snol è leggendario. La sua ubicazione è sconosciuta perfino agli Snol, e se uno Snol cade morto, deve rimanere dov'è finché non lo vengono a prendere. Nella mitologia nordica, Loki tenta di ritrovare il cimitero degli Snol, ma si imbatte invece in una fanciulla del Reno che sta facendo il bagno e si prende il piede dell'atleta. Questo era l'incipit di Bestiario, da citarsi addosso, di Woody Allen. As the sun rose up, to the sky, and all I could hear was birdsong. And the hackneyed tones of Radio One, I knew something was wrong. And as I lay and tried to remember, with tightly closed eyes, I felt soft, warm fingers trace a course from the small of my back to the inside thigh. Bite your lip. Pretend you're asleep. Friend again, I recall a bottle of vodka in past a man's friend. And a strange party piece with a Swiss army knife, with me and your girlfriend, or is she your? I know my bedroom's white and this one's green, with posters of bands I hate. And there's a whiff of petunia, and I know it's not me. An air of hell and decaf. And as a breast or two squash into my back, a rambling yawn floats over. And it smacks me in the mouth, just what this is all about. Friend. I've never done this sort of thing before, and I swear I was drunk. Believe the depths to which I've sunk. Now I know it's been hard, and I know I've been weak, but with your job and the bills, well, you can't blame me. It's just one of those things, we'll see it through. From this second on, it's just me and you. And as the chirps of cocks assault my ears, a rambling hand takes over. And I contemplate murder in the scene of the crime, but the guilt and the victim weigh heavy on my mind. Perhaps a simple diversion, a leap and I'm gone. Deny it ever happened is the drug she's on. climbing the stairs and down through the hallway. As I turn to confront her, to tell her the truth, those eyes that mouth Hear that, Mr. Anderson? That is the sound of inevitability. It is the sound of your death. Goodbye, Mr. Anderson. My name is Neo. Qua in Eclettica li conosciamo già per Summer Sand, il duo di Taipei di nome Misha. Vi ricordate, ho raccontato la loro storia che li ha fatti ricongiungere nella città di New York. E sembrava improbabile, perlomeno sulla carta, una canzone come quella che ci siamo appena ascoltati, con la voce così, così strana. E invece regge, sta in piedi, sì, ci sta. Questo ovviamente è il mio giudizio soggettivo. Io sono sempre a disposizione a cogliere i vostri giudizi, sia scritti privatamente a giulio@radiorockfm.com che pubblicati su myspace.com/eclettica. Ed ora ci ascoltiamo The Love Tones, la band australiana che stiamo cominciando a conoscere con questo singolo, Wintertime in Hollywood. Il Frean. Il Frean è un mostro marino col corpo di un granchio e la testa di un ragioniere. Si dice che i Frean posseggano una bellissima voce e che facciano impazzire i marinai che li sentono, particolarmente quando cantano alla Drupi. Uccidere un Frean porta sfortuna. In una poesia di Sir Herbert Fig, un marinaio spara a un Frean e la sua nave, all'improvviso, affonda durante una tempesta, obbligando l'equipaggio a sequestrare il capitano e buttare a mare la sua dentiera nella speranza di stare a galla. Il grande eroe. Il grande eroe è una bestia mitologica, con la testa di un leone e il corpo di un leone, non necessariamente dello stesso leone. Il eroe ha la fama di poter dormire per 1000 anni e poi svegliarsi di colpo in fiamme, specialmente se stava fumando quando si è addormentato. Si dice che Ulisse abbia svegliato un roe che dormiva da 600 anni, ma questo, assonnato e brontolante, lo implorò di poter rimanere a letto almeno per altri 200 anni. L'apparizione di un roe è generalmente considerata di cattivo augurio e di solito precede una carestia o un invito ad un cocktail party. Questo era ancora bestiario, da citarsi addosso di Woody Allen. Eclettica, stagione numero 13, settimana numero 41, volume numero 2, indice. John van der Slice, Vittorio Cane assieme a Mao, Cajun Dance Party, Moose, The Polyphonic Spree, Dragons, Don Turbolento, At Swim Two Birds, Misha, The Love Tones, Pissed Jeans. Giulio Caperdoni vi saluta, vi ringrazia e vi rimanda domani, sempre alle ore 19, sulle frequenze di Rock FM.